Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Rapidissimo, il sito radio24.it, il mio blog Guardi o Ladri, lo trovate con un qualunque motore di ricerca o direttamente nel sito di Radio 24 sotto il mio profilo o sul Sole 24 Ore Online. Seconda informazione, la nostra mail unabusoalgiorno@radio24.it. Da ieri stiamo affrontando un tema davvero interessante, perché è vero che riguarda un radioascoltatore che ci ha scritto Luciano Fabale, ma chissà quanti di voi si saranno identificati. In buona sostanza, riassumo. Fabale, il nostro radioascoltatore, ha un incidente. Colui il quale lo ha incidentato, che è colpevole del sinistro, sembra all'apparenza è sicuramente una bravissima persona. Compilano il CID, questo documento, diciamo così, di controversia amichevole, contatta la sua assicurazione che è Direct Line, quindi ci troviamo con un'assicurazione, una compagnia assicurativa che opera telefonicamente e telematicamente. Fatto sta che ad un certo punto il perito di Direct Line esce, vede i danni, però da quel momento il signor Fabale insegue Direct Line perché, nonostante raccomandate o telefonate, lui non riesce ad avere il risarcimento perché l'assicurazione della persona che lo ha incidentato non ci sarebbe. Poi si scopre che in realtà c'è. Nel frattempo lui mette in mezzo un avvocato per cercare di avere quanto gli si deve. Da ieri stiamo parlando di questo con Martinelli, Leonardo Martinelli, direttore sinistri di Direct Line, perché abbiamo scoperto una cosa interessante. Ogni compagnia assicurativa interroga un sistema che gli dice: sì, la controparte è assicurata, no, non lo è. Se non lo è, fanno altre ricerche. Nel frattempo il perito comunque esce. Però Martinelli, buongiorno intanto. Buongiorno. Però alla fine comunque questi soldi perché non arrivano? Cioè, se voi, come dice il radioascoltatore, avete fatto una seconda interrogazione e vi siete resi conto che l'assicurato, la controparte, l'assicurazione l'aveva, perché non parte il risarcimento nei confronti del vostro assicurato? Perché purtroppo non è come sta dicendo, perché quando abbiamo fatto la richiesta... Non come sto dicendo io, Martinelli, ma no, come no. Sta dicendo il nostro radioascoltatore. No, ma io sto dicendo i fatti. Quando noi abbiamo fatto la seconda ricerca, oltre il database, abbiamo fatto la seconda ricerca presso l'ufficio preposto dell'altra compagnia, la risposta, ci ha messo qualche giorno, è stata KO, cioè il cliente non è assicurato. Allora, perché ci dicevano, ci dicevano che la polizza era scaduta il 27 marzo 2010, mentre il sinistro era del 14 aprile 2010. Ok, allora, quindi voi avete mandato una nuova interrogazione ed effettivamente a voi risulta che la controparte non è assicurata. A questo punto, quindi, delle due l'una: o ha ragione lei e dice quindi lei la parte di verità, oppure ha ragione Fabale. Uno dei due, da come stanno le cose, da quanto scrive Fabale, da quanto lei dice, mentirebbe. Fabale, chi è che mente, lei o Martinelli? Perché lei dice, lo scrive, e la lettera è nelle mani ovviamente anche di Direct Line, che lei l'assicurazione l'aveva vista, l'assicurazione le avrebbero detto che comunque c'è. Sì, no, ma anche loro me l'hanno fatto. Quando io poi ho minacciato di denunciare il signore, loro mi hanno detto che era arrivata il 20 maggio la conferma che era la controparte era assicurata. E quindi io a quel punto ho detto: e allora perché non mi pagate? Okay. E loro hanno detto: il perito ha bloccato, no, il perito, il liquidatore ha bloccato la pratica. Okay, e quindi... va bene, e se no sembrava sistemata la cosa. Anche dopo una settimana, io poi ogni volta che chiamavo dovevo ripetere tutta questa cosa. Certo, certo. Perché ogni certo. volta che richiamavo, certo. il signore. C'è sempre un operatore diverso, certo. Sì, mi diceva sempre che non c'era copertura assicurativa, e come io minacciavo la denuncia, mi diceva: ah sì, no, è arrivata la conferma. Poi andavano a parlare con, non so, un loro. Ma scusi, ma lei una mail? Mi dicevano che comunque la liquidazione della liquidazione, insomma, era bloccata. Mi scusi, ma una mail? Alla fine io mi sono stufato, dico l'ultima cosa. loro mi hanno detto: ma perché non si va a fare assicurare, non si va a fare risarcire dalla controparte direttamente? Che cosa le costa a lei? Proprio così mi hanno detto. Ho capito. E infatti nella seconda raccomandata che mi hanno mandato un facsimile di come avrei dovuto richiedere io personalmente risarcimento alla controparte, mandando una raccomandata. Ok, va bene, fa male, ho capito. Allora, ciascuno ha una sua parte di verità, non sta a me ovviamente giudicare chi ha ragione e chi ha torto, però con l'aiuto di Raffaele Pellino io vorrei cercare di capire innanzitutto che cosa c'è che torna e che non torna di questa storia. Prego Pellino. Sì, allora, intanto mi sembra che tutto sommato, per una serie di circostanze che proveremo a chiarire, si è determinata abbastanza una tempesta in una tazza da tè. Sostanzialmente mi viene di pensare che probabilmente tutto il disguido è nato dalla vicinanza della scadenza per il rinnovo del contratto con la data del sinistro, perché sentivo dire che la polizza del responsabile scadeva il 30 a fine marzo e che l'incidente si è verificato 2 giorni dopo la scadenza del periodo di comporto o di mora. Questo ha comportato probabilmente, questa probabilmente è la causa della mancata verifica della copertura, perché non è stata recepita in tempo dai sistemi informatici il pagamento di quella rata di premio, perché se il signor Favale dichiara, e non abbiamo motivo di dubitarne, che ha visto esposto sulla macchina del responsabile un contrassegno di assicurazione in situazione di validità, certo, non possiamo dubitarne, certo, quindi certo, io ritengo certo. Che il responsabile abbia rinnovato per tempo la sua copertura e che questo rinnovo non è stato recepito in tempo dai sistemi informatici e quindi è stato dato questo famoso 2 volte il KO. Ecco, ma io le chiedo questo, Pellino. Il Favale avrebbe potuto collaborare per una rettifica di questo, perché avrebbe potuto documentare in qualche maniera, magari non limitandosi a telefonare, documentare l'esistenza della copertura assicurativa, facilitando una rettifica dei dati, certo, che avrebbe potuto essere. Ecco, però io le chiedo questo, Pellino. Allora, confidando nel fatto che effettivamente questo periodo di mora può aver reso più complesse le cose, Della scadenza dell'evento. E anche quindi abbia complicato anche le interrogazioni di sistemi che vengono aggiornati. Non ho altra spiegazione. Esatto. Cioè. Però io le chiedo questo: al di là della speranza di una soluzione amichevole tra le parti, vista la buona fede dalle parti, secondo me quando c'è buona fede bisogna sempre venirsi incontro. Ecco, le chiedo questo, ma poniamo il caso che invece effettivamente sia l'assicurazione essere nel giusto, ma non faccio riferimento a questo caso, e il povero incidentato che fa un incidente con una persona che purtroppo non La risposta è semplice. Ecco, che cosa accade? Che la procedura di indennizzo diretto non può essere applicata, perché il codice prevede che può essere applicata in un incidente che si verifica a 2 veicoli regolarmente assicurati, e si verifica che il signor Favale è stato danneggiato da un veicolo non assicurato, si rivolgerà direttamente al responsabile. È un caso limite, intendiamoci. Certo. Perché insomma, voglio dire, però potrebbe succedere. Potrebbe succedere, potrebbe succedere. In questo caso comunque c'è stata una serie di disguidi abbastanza non frequenti. Io non sono d'accordo che sia frequente. Guardi che la procedura sta funzionando. La procedura, che non è una procedura introdotta solo dal codice delle assicurazioni, perché aveva 10 anni di sperimentazione volontaria prima. Io sono stato per 6 anni presidente del consorzio che gestiva il CID volontario. Quindi la procedura sta funzionando, con la procedura si liquidano milioni di sinistri, no, ma questo cose, qui non abbiamo, con piccole lesioni, certo, con soddisfazioni, queste sono statistiche che noi verifichiamo tutti i giorni. Questo è un caso limite che ha determinato questo che io ho definito una tempesta in una tazza di tè. Ecco, ma io non ho motivo di dubitare che funzioni, però il sistema. Ora non capisco perché non si sistemi. Ecco, io infatti adesso, proprio questa qui è l'ultima domanda che farei a Martinelli, perché quello che dice Pellino non ho motivo di dubitare che il sistema funzioni. Certo che quello che non funziona è il rapporto telefonico, perché io stesso una compagnia assicurativa telefonica e ogni volta devi ricominciare tutto da capo, parli con 10.000 persone e francamente è sfiancante. Allora, Martinelli, al di là di questo dato, si risolverà la cosa oppure no? Allora, io le dico, le rubo 30 secondi per dire. Prego. come abbiamo detto ieri, questo tipo di sinistri noi li liquidiamo normalmente in 12 giorni, quindi quando succede qualche cosa, purtroppo il nostro cliente ha avuto questo problema, però normalmente li liquidiamo in 12 giorni, quindi la procedura, come diceva anche il rappresentante delle luci, di solito funziona molto bene. Questo caso qua specifico si risolverà, anzi è già risolto, perché? Che cosa è successo poi dopo? Il nostro assicurato si è attivato e l'altra compagnia ha a un certo punto modificato la situazione sul database e ha fatto diventare ok, in termini tecnici si chiama forzatura ok, quindi hanno fatto comunque, non so che cosa sia successo nell'altra compagnia, fatto sta che oggi sul database risulta un ok, quindi è finito il tempo, quindi voi liquiderete. Esatto. Benissimo, evviva! Peccato che non abbiamo una dolce sigla per chiudere questa bella puntata in cui almeno abbiamo capito qualcosa in più e un caso è stato risolto. Grazie a tutti i nostri ospiti, in regia a Carmelo Lauricella, in studio a Valeria Coffaro e Roberto Galullo, vi auguro una buona giornata.